Se Hillary Clinton e Barack Obama sognano la Casa Bianca, chi sognano gli americani? Una romanziera di Toronto ha creato un sito web per raccogliere le attività oniriche i cui protagonisti sono Hillary Obama. Risultato: il senatore dell'Illinois ha spiccato il volo con 43 sogni contro 34. Lui batte lei anche su questo fronte. Forse gli elettori negli Stati Uniti sognano i candidati alla Casa Bianca anche perché ossessionati da due spot notturni paralleli. It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the White House and it's ringing. Sono le 3 di notte, i vostri bambini dormono al sicuro, ma un telefono squilla alla Casa Bianca, c'è un pericolo. I'm Hillary Clinton and I approve this message. Alla cornetta risponde una Hillary Clinton che dovrebbe rassicurare gli americani e la risposta del rivale non si fa attendere. It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a spot simile ma conclusione diversa. Who had judgment and courage to oppose the Iraq war from the start? Sono l'unico, dice il senatore, ad avere condannato subito la guerra in Iraq. I'm Barack Obama and I approve this message. Valentina Furlanetto, GR24, Sole 24 Ore.